Maurizio Fornacella, che guidava la macchina e il socio. Maurizio Fornacella dice: chiamiamo Irma, in dialetto forte. Si sentiva la tenda ancora, era ancora in Macum, si sentiva i tamburi, i canti, i balconi. Dico, ma ci devo chiamare? Scappò Maurizio, e tornò a casa. Verso l'una, una e mezza, finita la Macum, stiamo tornando a casa, la vecchia macumbera mi chiama. Possono essere anche casualità, però mi dice: «Vossè a Magnà sta viaggiando, tu domani partirai». E io partivo. Certamente sarei dovuto partire, visto che non ero brasiliano. Però partivo proprio il giorno dopo che lei mi disse: «Domani tu partirai». Invece, quando arriverai al tuo paese, per 6 giorni accendi una vela bianca, una candela bianca, e mettila in una posizione più alta della tua testa. Ma se hai qualche problema, mi si chiamami, che io vengo. Sono arrivato a casa, questa storia era successa il giorno prima, la candela non l'ho presa. Però il giorno dopo mi sono detto: ma fammi andare a piacere questa candela. Quindi non ho preso la candela di 6 giorni, ho comprato la candela. L'ho accesa, l'ho messa sopra il frigorifero e si è spenta, consumata completamente al 6° giorno. Anche questa può essere una casualità, ma sono strane queste storie della magia nera o la magia africana. Sono strane, sono molto strane. C'ho le fotografie di questo. Fai le prove, quando fai le prove. Ieri ho messo la foto di Staino, Ho messo la foto di Staino. Quindi sono raccontato Staino quando è stato lì a Torino. È lui che dice: è strano, non l'abbia scoperto Hemingway, è fantastico. Va bene, tutti i viaggi in luoghi caldi. Ma Nord Europa non te lo sei fatto mai? Nanda Macum l'ho fatto in Bolivia, te la racconto domani.